Oggi, primo giorno di questa tragedia in Abruzzo, una delle cose più importanti è stare accanto a chi sta soffrendo, ai feriti, e quindi la cosa più importante è fare arrivare dal Lazio il sangue. Quindi donare il sangue oggi, mirare tutti gli atti di solidarietà verso un obiettivo che è collegato all'emergenza, perché poi nel corso dei prossimi giorni dovremo stare accanto agli sfollati. Già dalle prime ore del mattino, subito dopo il sisma, noi abbiamo dato il via a un intervento della Protezione Civile regionale con 300 volontari. Fin dall'inizio, dalle 6 del mattino, due colonne sono già partite, poi man mano gli interventi con gli elicotteri e gli escavatori.